Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piattanida in redazione, Filippo Aureggi in regia, dalla cucina di Palla Spicchi e da Basket Chef Gianmaria Vacirca oggi è qui con me, ma non ha portato niente da mangiare però. Siamo a dieta, Carlo, buongiorno a tutti. Siamo a dieta per cosa? Siamo a dieta perché questo blog è durato 7 mesi, 8 mesi prima della pausa estiva, è costato 7 kg e quindi 7 bisogna... 7 kg in 7 mesi. 7 kg in 7 mesi, un chilo al mese per il blog di Canestri e Fornelli. Intanto vi dico subito i risultati della notte NBA perché sono estremamente importanti, dato che poi ne parleremo a lungo. I Denver Nuggets di Danilo Gallinari hanno battuto i Los Angeles Lakers 113-96, si va allora a gara 7, dove rientrerà? Dove rientrerà? Ron Artest. Mica male, eh? Per gara 7, mentre c'è sull'altro fronte di quello ma di non Denver... Ma non si chiama Meta World Peace? Ah già, è vero, ho sbagliato. No. Per me era un artesto, voglio dire. Io faccio un po' fatica con questo Meta World Peace. Intanto noi avremo oggi la risposta europea ai playoff NBA, cioè le Final Four di Eurolega, altissima gradazione alcolica, visto per rimanere su temi a te cari, perché a Istanbul senza squadre turche, questo non avrei mai pensato. Panathinaikos Zesca per aprire le danze alle 5 e poi Barcellona Olympiakos. Secondo me cioè in queste due semifinali c'è una favorita che è il Barcellona, anche se Navarro non sta bene, anche se l'Olympiakos potrebbe essere la squadra del destino. È molto difficile da leggere Panazzesca, però io leggo chi c'è in panchina al Panathinaikos e quando quell'uomo lì arriva a una Final Four, Zeli Obradovic, difficile che ne perda. Sì, e doveva essere l'anno no per il Panathinaikos, che va sempre bene in Eurolega anni alterni, invece quest'anno è arrivata un'altra Final Four, conquistata andando poi a fare quel colpo a Tel Aviv dopo aver perso gara 2. Due grandi mancanze, secondo me, l'hai detto tu, una squadra turca e nessuno l'avrebbe mai immaginato, considerato il livello delle squadre turche e anche il momento della pallacanestro turca, che è un momento molto importante con tanti sponsor, non a caso grandi impianti, esatto, gli impianti, i budget e quanto possono pagare i giocatori, e ahimè anche quest'anno purtroppo non siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Siena è rimasta fuori dalla Final Four, è sempre un peccato non vedere mai la possibilità, la chance per una squadra italiana di tornare sul trono più alto d'Europa. Sì, poi la mettono su discorsi di budget Siena come altre e dicono non possiamo competere, a ragione o a torto, con il budget del Pana, del Zesca, di queste quattro che comunque vanno lì. Poi io sono sempre dell'idea che gli estratti conto non vanno in campo e, sono d'accordo con te. E Siena aveva la possibilità di estromettere un Olympiakos che comunque si è ridimensionato rispetto al passato. Molto. Chiediamo agli ascoltatori chi vince. Pronosticone? Pronosticone per gli ascoltatori. 800240024, numero verde. Il mio pronostico è finale Panathinaikos Barcellona e vince il Panathinaikos. Io sono d'accordo con te, con il Panathinaikos favorito perché era l'allenatore migliore in panchina. Intanto Coach Dan Peterson oggi è in volo, in viaggio verso Istanbul, dove commenterà le Final Four per Sport Italia. Ci resta un suo tweet, lo facciamo sentire? Carmelo Anthony ha lanciato un messaggio a Jeremy Lin. Ehi, vedi di non tornare troppo presto dall'infortunio. Ma perché mai? Questa cosa mi fa impazzire. Dove credi di andare se il tempo che è passato non passerà mai? Il messaggio è fin troppo chiaro, quello di Carmelo Anthony, no? Sì, messaggio chiarissimo. Dice. Però penso che messaggio di Twitter a parte per New York e conferma dell'allenatore a parte per New York deve essere un po' un anno di grandi cambiamenti. In più c'è anche la seconda squadra, perché la mia squadra del cuore, cioè New Jersey Nets, si sono trasferiti a Brooklyn e quindi inaugureranno la nuova arena. Ci sono già delle bellissime magliette in vendita, me ne sono fatte acquistare da un amico, Vittorio Ferre, che saluto, che in questo momento è all'NBA Store a comprarmi le prime magliette dei Brooklyn Nets. Com'è? Com'è la maglietta? Non hanno ancora fatto vedere la canotta, però Jay-Z ha disegnato queste magliette, Jay-Z, quindi potete immaginare quanto sono cool. Invece, per quanto ti riguarda, Gian Maria Vacirca, leggo qua e là che farai diversi viaggi verso Varese. Ci spieghi qualcosa? Ma veramente adesso faccio diversi viaggi verso varie mete. Ma no, sono uscite queste notizie, inutile negare l'evidenza. C'è un bel rapporto con Cecco Vescovi, che è il presidente della Pallacanestro Varese, che in questi ultimi 3 anni ha sempre cercato di costruire qualcosa con me, di far nascere un rapporto di collaborazione. Io ero impegnato moralmente con un'altra società e quindi gli accordi si rispettano sempre. E adesso c'è questa possibilità di andare a dare una mano, perché è proprio così, andare a dare una mano, e quindi dovesse poi concretizzarsi fino in fondo, sono ben contento di poter mettere a servizio il mio entusiasmo per una delle realtà più importanti e piene di storia del basket italiano. Roberto Rimini, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e due. Allora, io dico Barcellona per la vittoria innanzitutto. Perché? Perché mi piace di più. Ah, vabbè. No, mi piace molto come giocano e secondo me come squadra a me piacciono di più. Poi se l'altro allenatore è più forte, questo non so, sinceramente non so dirlo, perché poi sarà il campo anche a dimostrarlo, insomma. Però io dico Barcellona. E poi una domanda sul campionato italiano in genere, ma questa legge che si possono cambiare giocatori di continuo non mi sembra un po' riduttiva, che tende sempre a premiare chi ha più soldi? Questa è una domanda interessante che risponderemo subito dopo il traffico. Grazie Roberto Darimini, 800 24 00 24, numero verde. Torniamo sempre con Gian Maria Vacirca, 800 24 00 24, è il vostro numero verde per parlare di basket. Oggi ovviamente parleremo anche di playoff italiani, non solo di quelli NBA, perché da domenica abbiamo la griglia di partenza del Gran Premio Playoff. Passerà molto tempo prima di vedere il debutto di questi playoff, qualcuno dice anche troppo tempo, soprattutto per squadre che hanno ritmo, ad esempio come Milano. C'è Cantù che invece di questa pausa ha bisogno, non so quanto ne aveva bisogno la Scavolini, che invece è in grandi condizioni, insomma poi ne parliamo. Ma rispondiamo a Roberto Darimini, che dice: ma si possono cambiare i giocatori porta girevole davanti alle squadre fino all'inizio dei playoff, non è troppo penalizzante per chi, insomma, o meglio troppo favorevole a chi ha denari da spendere? Ma è una regola che c'è sempre stata e comunque bisogna tararla, nel senso che non è che prima dei playoff trovi chissà cosa, trovi quel che c'è, trovi magari dei giocatori, come è successo con Milano, come con Dentmond, che hanno rifiutato l'Europa per 2 anni di fila cullando il sogno dell'NBA e adesso vengono a fare una... io la chiamo una comparsata, però che non si pensi che un innesto prima dei playoff sia un innesto decisivo. Siena, quando li fece in passato, li fece prendendo dei giocatori polizza d'assicurazione in caso di infortuni, e questa è la storia. Non ci sono mai stati grossi colpi prima dei playoff, però questo Denton è un giocatore interessante. Sì. Guarda, un giocatore interessante a cui io sono legato da tanti ricordi, perché a settembre, quando si infortunò Sosa, io e l'allora allenatore del Montegranaro passammo 2 notti intere a cercare di convincerlo a venire a giocare in Italia, parlando sia con lui che con il suo agente Bill Neff, ma il ragazzo assolutamente non aveva mezza, perché sognava la chiamata. È un giocatore... principalmente un point scorer, cioè per una squadra di medio-basso profilo gli puoi lasciare la palla in mano per permettergli di fare quello che sa fare meglio, far canestro. Sarà interessante vederla a Milano, dove va in un sistema già molto collaudato e dove secondo me fungerà più da guastatore piuttosto che da giocatore con palla in mano. Sì, però comunque può cambiare il pick and roll di Milano. Sì, sì, sì, assolutamente. È un attaccante pazzesco. Mario, provincia di Terni, mentre io vedo anche messaggi sms 349-238-6666 sulla finale di Eurolega, c'è chi scrive: Cesca contro Barcellona vincenti russi, finale Cesca-Barcellona anche per Daniele da Treviso, vince chi gioca meglio, quindi CSKA. Viva il Cesca, un grosso saluto a Gian Maria Vacirca da Castella Scrivia. E quindi... c'è Michele che domanda: le 4 europee delle Final Four, se fossero nei playoff NBA, dove potrebbero arrivare? Questo è domandone che ritorna nei playoff NBA, non, secondo me non lontanissimo, ma è una domanda a cui veramente è un periodo ipotetico dell'irrealtà dell'impossibilità, però diciamo che le più forti, blasonate, complete squadre europee, una stagione regolare, soprattutto est, se la possono giocare molto bene. Però i playoff sono un altro gioco. Mario, buongiorno. Buongiorno. Dica. Saluti a tutti e due, innanzitutto. Buongiorno. Niente, più che un pronostico, un augurio per Olympiacos. Olympiacos. Perché? Perché? Perché ce lo dice un'altra volta, perché è caduta la linea con Mario da provincia di Terni. Perché probabilmente Mario voleva fare riferimento al fatto che l'Olympiacos quest'anno ha drasticamente ridotto il budget, ha puntato su tanti giocatori giovani. Ricordiamo che il giocatore che ha ammazzato Siena nella serie è stato Kyle Hines, che tutti quanti noi soloni e profeti in patria ritenevamo troppo piccolo per fare il pivot in Italia. E addirittura partì con all'ala un giocatore come Matt Howard, eroe al college, poi Matt Howard non ce l'ha fatta, Kyle Hines sì, tanti giocatori giovani, un nuovo ciclo, il ritorno di Printezis, che non è mai stato considerato un califo ma che ha fatto una signora Eurolega, e complimenti a un altro vecchio santone della panchina come Duda Ivkovic, che è lì e se la gioca di nuovo. Francesco scrive: dico pana perché per i greci gioca da dio Iasikevicius, gli altri non hanno un fuoriclasse altruista come lui. Iasikevicius mi sembra però molto vicino al alla conclusione del viale però del potrebbe, tramonto, potrebbe essere l'ultimo guizzo di un grandissimo campione. Tu dici? Sì, bah. Lui dieci minuti può sì, cambiare sì, la partita sì. È stato periodo anche di votazioni, ovviamente a stagione regolare conclusa, degli MVP stagionali, e quindi miglior giocatore, risultati comunicati dalla Lega, miglior giocatore è Bo McCaleb di Siena. Vince il tuo amico Meo Sacchetti tra i coach, e grossi dubbi non potevano esserci, no? Meo Sacchetti è il Nereo Rocco del nuovo millennio. Nel senso che quando Nereo Rocco fece grandi cose al Torino e poi al Padova, e tutti quanti pensavano che Nereo Rocco funzionasse perché allenava al Padova, invece poi Nereo Rocco lo chiamò il Milan e Nereo Rocco col Milan vinse tutto. Quindi, con tutto il massimo rispetto, stima, amore e affezione che ho per la Sardegna e per la Dinamo Sassari, un giorno, ovviamente alla fine del contratto di Sacchetti con la società con cui sta centrando grandi obiettivi, mi piacerebbe che Meo avesse la chance con una squadra che lotta per l'Eurolega, che lotta per lo scudetto, perché secondo me lo merita per quello che ha fatto in questi anni e per il tipo di allenatore che è. Io saluto Flavio Tranquillo che è a Istanbul. Ciao Flavio. Buongiorno a voi. Buongiorno. Com'è l'aria da quelle parti? Frizzante, frizzante, c'è attesa, c'è interesse, c'è equilibrio, credo che non saranno magari le Final Four di altri anni in cui c'erano magari due grandissime squadre, 10 grandissimi giocatori, qua c'è una grande squadra, secondo me 5 grandissimi giocatori, però l'equilibrio penso che le renda ancora più interessanti. Panazzesca mi sembra la semifinale più difficile da leggere. Sicuramente, perché c'è la grande squadra che è il Cesca, ma c'è anche la squadra che fa paura a tutti, in primis al Cesca, per il semplice motivo che i risultati parlano talmente forte e chiaro, soprattutto per l'allenatore, ma non solo per l'allenatore, che non puoi non temerli, specie quando non hanno niente da perdere come in questa situazione. Sì, definire l'Olympiacos Cenerentola mi fa morire da ridere, però certamente è la squadra outsider forse di queste Final Four. Sì. Però in quel caso addirittura io sono ancora più radicale e dico che invece è la mia favorita di quella partita, mi stanno già prendendo tutti per matto, adesso mi prenderanno anche più per matto, però a me piace l'Olympiacos per la posizione in cui è, per non avere niente da perdere, perché mi sembra che abbia la quantità, se non la qualità, per resistere alla prima e alla seconda botta del Barcellona senza affondare subito, che è la chiave per poter provare a giocare contro una squadra che è chiaramente più forte dell'Olympiacos, ha più qualità, però un po' l'infortunio di Navarro, un po' la stagione, un po' il tutto, mi sembra un po' a fine ciclo. Io non sono così sicuro che sia automatico che vincerà il Barcellona, che ripeto, è più forte. Gianmaria Cerca, che ne pensi? Ma ne penso che l'Olympiakos può essere veramente un po' la squadra del destino, come dicevi tu prima, perché comunque una squadra lunga, tanti giocatori che hanno una grande occasione, una grande ribalta, non hanno niente da perdere, sono andati tanti di loro oltre i propri limiti, e quindi perché no? Perché non sovvertire il pronostico di questa semifinale? Tanto torni in tempo, no, Flavio, ritornare a commentare ciò che succederà in America. Torni al volo. Torno al volo lunedì. Anche perché c'è una partitina che ci aspetta. E io devo renderti merito per il fatto di aver grosso modo pronosticato l'inimmaginabile che si è verificato. Gara 7 tra Lakers e Denver. Ma ti dico, secondo me la chiave è stata che i Nuggets in gara 1 non hanno giocato, proprio non hanno giocato. In gara 2 hanno giocato, però hanno perso perché hanno trovato i migliori Lakers della stagione. Ma il fatto che abbiano giocato in gara 2, secondo me, doveva mettere tutti un po' con le antenne dritte. E invece forse i Lakers hanno pensato, quando si sono trovati sul 3-1, che avrebbero trovato di più i Nuggets di gara 1, ma quelli non li ritrovano più. Questo non significa che vinceranno gara 7, penso che i Lakers possano vincere gara 7, però adesso si sono complicati la vita in una maniera davvero impressionante, come minimo giocando 7 partite, e poi al turno dopo, se passano, trovano Oklahoma che ne ha giocate 4. Già in partenza Oklahoma è come se avesse un vantaggio di 10 metri in una corsa sui 100, magari sono diventati 15 per la questione fatica contro riposo. Sì, oggi da definire rimane Clipper Memphis, e poi a parte questa gara 7 è tutto scritto, si è conclusa direi l'agonia di Chicago contro Philadelphia. Secondo me c'è da essere dispiaciuti e anche guardare le cose in prospettiva. Dispiaciuti perché Chicago non ha potuto letteralmente giocarsi le sue chance, però guardare le cose in prospettiva. L'anno scorso è toccato agli Spurs, miglior record, poi il gomito di Ginobili che salta, qualche altro infortunio e va fuori contro Memphis, e per Chicago è stata la stessa cosa. Questo però non deve assolutamente, non può assolutamente levare tutto quello che ha fatto Chicago anche dentro questa serie, che qualsiasi altra squadra avrebbe abbandonato. Invece ieri sono andati a 2 tiri liberi via Chic, probabilmente dall'andare a gara 7, che io credo avrebbero anche vinto. Grazie Flavio, buon lavoro. A voi, saluti Gian Maria. Ciao Flavio. Ciao Flavio Tranquillo, abbiamo un ascoltatore della provincia di Milano, 800 24 0024, nome importante, Cristo, provincia di Milano, buongiorno. Sì. Sì. Buongiorno. Niente, da greco tifo Pana, però vedo che Barcellona ha più fame di vittoria. Ah, lei dice? Sì. Ma non la metterei tanto sulla fame, perché Panathinaikos, quando arriva lì, secondo me è sempre la più affamata di tutte. Quindi... Sì, ma tutta la stagione ho visto che praticamente sono stati da lunghi anni di vittorie. Vedo più Barça questa volta, anche se Olympiacos giù a Faliro fa cose meravigliose, io vedo di più finale Barça. Grazie a lei. Io credo che insomma, una partita che darà un senso, un volto a questa Eurolega sarà la prima semifinale. Sì, sono d'accordo con te. Un altro bel tema della presenza delle due squadre greche è che si abbinano a un momento difficilissimo per il paese, non che tanti altri paesi stiano meglio, però insomma sono due squadre che portano con sé un sacco di tifosi, un sacco di gente che partirà con tante speranze di vincere e di, come dire, di avere un giorno di festa dopo tanti giorni difficili. Senti, tra 15 secondi dobbiamo dare la linea alla borsa. In 15 secondi, ma si tratta soltanto di un numero, dimmi, lo chiede Michele, quante possibilità dai a Denver in gara 7? 50%. Addirittura? Sì, sì. Sì. 50% gara 7 vale in casa tutto. In casa di Kobe Bryant. Vale tutto, sì. Ci fermiamo per la borsa, 800 24 00 24, numero verde, siamo qui. Dunque torniamo, tanti gli ascoltatori che vogliono intervenire e che lo faranno, 800 24 00 24 numero verde, più tardi parleremo anche di Giro d'Italia perché abbiamo i soliti regali da farvi, sempre con me Gianmaria Vacirca che dava il 50% a Denver, esagerando un po' secondo me nella gara 7 con LA, Denver che ha qualche problema interno, qualche problema, un giocatore di Denver ha avuto qualche problema con la polizia, non poteva che essere Birdy Andersen, Chris al secolo Chris Andersen, casa perquisita dalla polizia, sequestrato computer dall'unità che vigila sui crimini via internet contro i bambini. Storiaccia questa per Birdy, che già nel 2006 fu sospeso dall'NBA per consumo di droghe. Tutti lo difendono, a cominciare da George Karl, allenatore, ma l'altra volta è stato passato da queste parti, seduto veri tu, Danilo Gallinari ci raccontava di una persona, di un ragazzo estremamente sensibile e per bene, al di là dell'aspetto, con quei milioni di tatuaggi che lo, sì, che lo ricoprono. Personaggio molto bizzarro, giocatore che vanta un fitto stuolo di ammiratori, perché comunque ha questa qualità di schiacciata, stoppata. Sono quei personaggi che soprattutto a tanti ragazzini piacciono, e noi tutti ci auguriamo che questa storiaccia si apra e si chiuda nel più breve tempo possibile. Questo perché è brutta, insomma, brutta. Vero. Allora, vorrei tornare agli MVP. Come giocatori, primo sul podio McCaleb, Andersen sempre a Montepaschi, e terzo Victor Sanikidze, Canadian Solar Bologna. Miglior allenatore Romeo Sacchetti, alle sue spalle sono Mazzon e Ramagli. Condividi? Sì, ci sta. Quanto agli under 23, vince Achille Polonara davanti ad Alessandro Gentile e Nicolò Melli. Sì, non è che ce ne siano tanti altri. No, onestamente no. C'è De Nicolao, che è il mio idolo, un po' perché è un ragazzo che mi piace tanto come gioca, come interpreta la pallacanestro, e sul quale Giorgio invece sta facendo un grande lavoro. Note di merito, aggiungiamo delle note di merito. Andre Smith ha fatto un signor campionato a Caserta ed è un giocatore che meritava magari di stare tra i primi tre. Negli allenatori, io credo, nonostante questo inghippo accaduto l'ultima giornata, che Dal Monte con Pesaro abbia fatto un grande lavoro, anche passando sopra e oltre determinate problematiche emerse durante l'anno. Tuo settore, quello dei dirigenti, vince Casarin dell'Umana Venezia davanti a Brunetto Arrigoni e a Pasquini del Banco Sardegna. Sì, Casarin, che è passato insieme a Mazzone a tutta la Reier dalla Lega 2 alla Serie A una settimana dal via, inserendo due giocatori di assoluto livello come Shevchik e come Timmy Bowers, e Pasquini, che con Sacchetti ha costruito questo miracolo chiamato Sassari, in mezzo l'incrollabile, l'immaginifico Bruno Arrigoni. Grande gourmet, oltre che grande dirigente. Massimo Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io tra gli attori ci metterei anche Kaya. Bravo, anch'io. Che ha fatto un lavoro pazzesco a Cremona. Penso anche che con la squadra che ha avuto lui alla fine, ce l'aveva dall'inizio, probabilmente i playoff ci andavamo noi. Sì. Ne sono quasi convinto. E niente, poi volevo... Senta, ma ci dia qualche notizia, di prima mano sono molto buone. In che senso? Sul futuro di Cremona? Nel senso che si parla di trasferimento a Montichiari, questo vuole dire chiaramente che da Cremona non so quanta gente potrà andare a Montichiari, sono 50 km, ma secondo me è assurdo. Adesso vediamo se c'è qualcun altro che si fa vivo, altrimenti secondo me qua finisce tutto. È veramente un peccato, anche perché insomma la passione c'è, il palazzo è sempre pieno. Quindi vediamo, stiamo a vedere. Per adesso non ci sono buone notizie. Sì, comunque voleva dire altro? Sì, avevo dimenticato anche la seconda cosa e non me la ricordo più. Non se la ricordo più, fa niente. Se le viene in mente ci richiama, come si fa sempre, no? Quando mi viene in mente ti richiamo. No, Attilio Kaya secondo me ha fatto uno dei capolavori della sua lunghissima carriera quest'anno, prendendo Cremona in ovviamente uno scorcio di campionato e costruendo innanzitutto una difesa pazzesca, mostruosa. Giusto. Ma lui stesso mi ha detto che un lavoro di questo tipo non gli era mai riuscito in così poco tempo. Cioè, dice, dopo tre mesi che era lì, difendiamo a dei livelli che io non ho mai raggiunto lavorando per così poco tempo su una squadra. E poi ha preso, non segnavano mai. Rich. Tiravano, erano degli scaricatori di mattoni, ha preso un giocatore che faceva canestro e si è salvato in carrozza. Sì, e questo ci insegna come tante volte, è chiaro che non tutte le ciambelle riescono col buco. Quando hai un'impronta tecnica forte, quando hai anche delle qualità tattiche, a volte serve veramente un piccolo cambio per ribaltarti un po' una stagione. Cremona ha preso bene con Ricci, che è un giocatore che noi vedemmo in Italia 3 anni fa con Cantù, quando era il suo primo anno, quindi era ancora giovane, e ha fatto esperienze in Israele, eccetera, eccetera, e ha fatto una grandissima stagione. Tanto c'è chi scrive, da profano basketaro vi chiedo, può succedere che in Eurolega, come è successo in Champions League, nella Champions League di calcio, le squadre favorite non vadano in finale? Può succedere altro che, caro Fabio da Monza, ed è per questo che dalle 5 saremo tutti lì a vedere cosa succede in queste partite meravigliose, saranno come sempre di una intensità emotiva pazzesca. C'è chi scrive, Francesco, proposta, perché non avere tutti i playoff con le serie al meglio delle 7 gare e la finale al meglio delle 5? Mi sembra una proposta bizzarra, così come mi sembra bizzarro il primo atto di Valentino Renzi, che è stato confermato a presidente della Lega fino al 2014, era in scadenza 2012, confermato fino al 2014. Si sa già che il campionato di basket inizierà il 30 di settembre, però, il primo atto è stato quello di dire tutti i playoff al meglio delle 7 gare. Io avrei fatto esattamente il contrario, serie al meglio delle 5, finale compresa. Invece dall'anno prossimo vedremo un rosario di partite, secondo me inutile, cioè secondo me si annacqua il vino del playoff. Guarda Carlo, io penso che tu abbia assolutamente ragione, sono per noi tantissime partite. Credo che sia una scelta spinta anche dal momento di grave difficoltà che c'è globale, ma è ovviamente anche nella pallacanestro, e quindi l'incasso in più, i 2 incassi in più vengono visti dai club come un aiutino, ma non è questo il modo di risolvere le problematiche, a patto che si possano risolvere, perché oggi è veramente molto difficile risolverle. No, oggi è impossibile, secondo me invece si snaturano in peggio i playoff, perché già io non sopporto la finale al meglio delle 7 partite, perché 5 bastano e avanzano con le nostre squadre che arrivano lunghe, quindi reduce una stagione molto, molto complicata, non ha alcun senso una serie al meglio delle 7. C'è chi scrive questo messaggio facendo un parallelo tra Champions League ed NBA, senti questa, è l'anno dei Vecet, Chelsea e San Antonio, Drogba come Duncan, peccato che Di Matteo abbia la metà degli anni di Popovic. Ha ragione, il Chelsea, Di Matteo è il Kaya del Chelsea. Sì. Ha preso il posto di Villas Boas, ha portato la squadra a dei livelli impensabili con l'eliminazione del Barcellona, e invece sono due squadre, ecco, per fare un parallelo che non c'è, sono due squadre che in campionato l'hanno data su abbastanza in fretta e si sono ben preservate per questo gran finale. Sì, nell'NBA non puoi farlo, perché no. I record poi sono decisivi. Sì, c'è un'altra cosa, visto che stavamo parlando di formule, c'è un'altra cosa che io faccio fatica a sopportare, e cioè questa lunghissima pausa tra la fine della stagione regolare e i playoff, che inizieranno soltanto il prossimo weekend, il 17, si giocherà 17 e 18 di maggio. 17 Sassari-Bologna, Montepaschi-Cimberio, il giorno dopo Milano-Venezia e Cantù-Scavolini. Incomprensibile, perché voi mi dite c'è di mezzo l'Eurolega, però con un po' più di flessibilità questi playoff si potevano già iniziare giocando insieme all'Eurolega, ovviamente senza sovrapporsi. Siamo abituati ad una Lega Calcio che anche in maniera anche troppo sclerotica sposta le partite come pedine sulla scacchiera da un minuto all'altro, tanto che avete sentito la giornata di l'ultima di campionato in programma, prima alla sera alle 20:45, poi cambiato 2 partite, poi ne ha spostate 3, poi 3 alle 15, 2 alle 18. Si poteva in maniera elastica prevedere l'inizio dei playoff, ovviamente senza andare a provare a rubare la scena all'Eurolega, incastrandosi con le Final Four d'Eurolega, visto che lì non ci siamo. Due considerazioni. Hai fatto giusto riferimento a quello che accade nel calcio, ma anche nel basket, con lo spostamento delle partite. In Spagna il Classico hanno fatto giocare tranquillamente 3 giorni prima delle semifinali di ritorno di Champions. E hanno giocato, ha vinto Real Madrid, e dopo 3 giorni erano in campo a giocarsi la finale con il Bayern e l'altro la finale con il Chelsea. L'altro problema è che la gente si dimentica, cioè noi non ci rendiamo conto che la pallacanestro deve andare fuori da quello che è il nostro mondo, da quello che è un po' il nostro orto, ma il tifoso da conquistare, dopo 15 giorni qui non si gioca, ma si dimentica che c'è un campionato, perché oggi il mondo ci offre 1500 cose, i concerti, il teatro, le rassegne, le mostre, la fiera del cibo, la gente si dimentica, dopo 15, trovi uno e dici ma... perché il campionato non era finito, non è finito, giocano i playoff fra 15 giorni, ma io vado al mare. Ma è proprio così. Ci fermiamo per il traffico e poi state lì, ecco i messaggi SMS, perché vi faccio la domanda sul ciclismo che vi permetterà di vincere polsino autografato di Ivan Basso, polsino di Radio 24 naturalmente, che vedete ogni giorno al polso di Ivan al Giro d'Italia. Traffico. Prima del ciclismo Andrea da Treviso. Buonasera, buongiorno a lei gente. Buongiorno. Volevo fare, se mi è permesso, aggiungere una riflessione a quella, all'intervento che ha fatto Tranquillo da Istanbul, sì. per dare onore, secondo me, a chi va dato onore. Ciò Diego ha detto, c'è una grande squadra, stasera le Final Four, 4-5 buoni giocatori. Io direi che mi permetto di dire la mia opinione che c'è un Lionel Messi o un Michael Jordan degli allenatori che si chiama Obradovic, che è nei cieli, poi c'è una grande squadra e 5 grandi giocatori. Secondo me è incredibile come quest'uomo ogni volta che guarda la sua data anagrafica, io ho 50 anni, lui penso sia il 61, costui vinse con Badalona che aveva 35 anni e ha sempre allenato, devo dire, grandi squadre, però veramente è di un'altra categoria, sì, come allenatore, questo gli va, sì, gli va veramente. Lei ha ragione, Andrea. Ma lei ha ragione, sono d'accordo, anche perché insomma non un conto è allenare una grande squadra, un conto è vincere, e lui vince, perché ci sono tanti allenatori che hanno allenato grandi squadre, ma nessuno che ha vinto contro Zero Obradovic. Sì, sono d'accordo. L'anno scorso andai a Belgrado a vedere questo clinic con chiuso da Obradovic, e Obradovic fece la lezione sul pick and roll e con questi 5 ragazzini in campo, 10 ragazzini in campo, 5 attacco e 5 difesa, e tu in 35 minuti hai visto 25 chiamate di Obradovic, ed era così bravo a spiegare che ti sembrava di vedere proprio Battisti in campo. Aveva un playbook di 80 chiamate, e quando tu hai un playbook di 80 chiamate, attacchi, rimesse eccetera eccetera, devi anche avere dei giocatori che sono in grado di mettere in pratica un playbook di 80 chiamate, perché non è così semplice, cioè, non è così semplice, devi avere della gente capace. Si spiegano anche in questo modo, per chiudere anche le difficoltà di un giocatore come Nicolas qui a Milano. Cioè Nicolas era da anni che aveva questo playbook, quel ruolo, quella posizione in campo, su questa chiamata fai così, su questa chiamata fai così. Poi non è semplicissimo. Non è semplicissimo uscire da un sistema così, così efficace e trovarsi in un sistema in costruzione. Quindi hai ragione, ma l'abbiamo detto molte volte. Chi vince il Giro secondo te? Ma Carlo, chi vince il Giro? A me piacerebbe vincesse un corridore italiano. E quindi lì c'è solamente l'imbarazzo della scelta. Parliamo di Giro d'Italia. Veicoli commerciali Citroën, dedicati a chi pedala tutto il giorno. Vi presenta Voci dal Giro. Allora, vi faccio subito la domanda, così poi mi rispondete via SMS, 349-238-6666, magari metteteci anche la firma, così riesco a dare un nome al vincitore, il vincitore del polsino di autografato di Ivan Basso, quello che vedete in corsa tutti i giorni. Allora, oggi il Giro arriva a Porto Sant'Elpidio, dove nel 92 Cipollini vinse la quarta tappa di quel Giro. Vi chiediamo quante tappe ha vinto in carriera Mario Cipollini al Giro d'Italia. 349-238-6666. Ricordiamo che è possibile anche vincere una tappa sull'Ammiraglia di Ivan Basso il 20 di maggio. Dovete inviare entro il 15 un vostro ricordo del Giro in poche righe, una decina al massimo, ad attempodisport@radio24.it o nella sezione dedicata al Giro d'Italia sul sito radio24.it. I racconti più belli li leggeremo in diretta, ovviamente il vincitore compreso. Oggi tappa che arriva a Porto Sant'Elpidio con quello che i tecnici chiamano un mangebevi finale su e giù per l'Appennino. Diego Ulissi è uno degli italiani che, insomma, dei giovani italiani della Nouvelle Vague del nostro ciclismo, potrebbe essere anche un candidato per la rosa. Dice così. Ma è sicuramente una tappa mossa, cui se si insomma ci sta che ci sia anche veramente una selezione importante. Condizione ottima, cercherò di stare lì intanto a Michele, nel finale se ci sarò e starò bene proverò a giocare le mie carte. Beh, oggi più che mai secondo me è una tappa che per noi italiani si addice. Visconti, Ballan, Pozzato, ci metto pure io, insomma vediamo un po' di fare ottime cose. Questo era Diego Ulissi, adesso noi torniamo a chiudere con il basket. Voci dal giro. Rieco con Gian Maria Lacerca, tutte e due insomma sulla stessa lunghezza d'onda quanto a questa enorme pausa che ci divide dall'inizio dei playoff. Una pausa che però Gian Maria potrebbe far bene a una Cantù che ha finito un po' a pezzi la stagione, perdendo il terzo posto con molti giocatori da recuperare che probabilmente non verranno recuperati, e io dico che questa serie con la Scavolini non sarà semplicissima. Non sarà semplicissima. Dal Monte con la sua Scavolini ha vinto due volte in stagione regolare contro Cantù, due partite tiratissime. Ha una squadra di talento, perché la Scavolini è una squadra di grande talento in Hickman, in Jones e in James White. Cantù secondo me ha pagato questo anche calendario frenetico delle ultime partite, si giocava ogni tre giorni, e quindi con l'infortunio di Mitzov, poi l'infortunio di Shermadini, che tra parentesi ha perso per il futuro perché ha firmato col Maccabi due anni, insomma la partita con la Virtus a Bologna, che è stato un po' un karakiri nell'ultimo minuto, però Cantù ci è arrivato un po' stanca, e questo in termini di piazzamento finale conta parecchio, perché Milano è seconda e Cantù è terza. Anche perché ha finito proprio, sembra aver proprio finito la benzina. Sul traguardo anche a Bologna, dove era, aveva 9 punti. Tante partite, io do abbastanza responsabilità, scusate, a queste partite così ravvicinate. Come era successo alla Juventus in campionato, facendo un parallelo, la Juventus ha sempre sofferto gli infrasettimanali, certo. Con la rosa corta soffrì col Bologna, soffrì con il Lecce, soffrì col Genoa. Lo sai bene, da juventino, sì, la gobbo. Abbiamo rialzato la testa. Invece l'innesto di Perkins, come lo valuti a Cantù? È il giocatore che non c'entra niente con quel sistema, ma proprio per questo secondo me è funzionale, io l'ho sempre detto. Ma Perkins deve essere la marcia in più di Cantù in questi playoff, perché è un giocatore che Cantù ha avuto la pazienza di aspettare, perché arrivò che era molto indietro, ci voleva ancora un mese prima di metterlo in pista, infatti pagò dazio in occasione delle Final Eight. Adesso, essendo dotato di grandissima fisicità, è un giocatore che ti può aiutare a rimbalzo, che ti può aiutare nei recuperi. Adesso deve far vedere il Perkins del Maccabi, e quindi io penso che Perkins sarà il valore aggiunto del Cantù. Non dimentichiamo il lungo infortunio da cui è uscito, e sono cose che alla fine si pagano. Non credo che Cantù riuscirà a recuperare il suo giocatore chiave, che è Mitzov, per questi playoff. Ed è un'assenza comunque di cui bisogna pesantissima di cui bisogna tenere conto. Senti, torna domenica a farmi compagnia per Palaspicchi dalle 20:30 alle 21, che esaminiamo, guardiamo al microscopio le serie di playoff, sognandole ancora per un po', visto che ci fanno aspettare il 17. Aspettare un'eternità, ma si può, secondo me questa è veramente una follia. Isaia ha vinto il 42, sono le vittorie di Mario Cipollini al Giro d'Italia. Isaia ha vinto il polsino di Radio 24 con la firma di Ivan Basso. Noi con lo sport ci fermiamo qui. Ringrazio Gian Maria Vacirca, Filippo Aureggi in regia e Franco Piantanida in redazione. Con lo sport ci sentiamo domani alle 17, e già vi dico, magari così ci venite a trovare di persona, domenica dalle 16:30 alle 19 saremo alla Fiera del Libro di Torino. Sarò e saremo, Radio 24 c'è già, ci sarò anch'io, e mi farebbe piacere conoscervi. Quindi a domenica.